alto, basso, lungo, corto. Piano pianissimo, poi crescendo a forte. Lento, poi sempre più veloce, rapido, nevrotico, sclerato, sempre più marcato. Con la voce mi diverto, cambio il timbro nel concerto. La la la la la la la la du du du du du du du du. La mia voce allenata, più non teme, ormai è lanciata.